Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, giovedì prossimo ricorderemo il 20° anniversario della scomparsa di uno dei personaggi più popolari del suo tempo, un autentico idolo pop, la principessa Diana, nata nel 1961 come Diana Frances Spencer. Ricorderete naturalmente l'emozione che attraversò tutto il mondo alla notizia della sua tragica scomparsa, che avvenne in seguito a un incidente automobilistico nella notte tra il 31 agosto del 1997 in un tunnel a Parigi, un incidente nel quale morirono anche l'autista e il compagno Dodi Al-Fayed. Diana aveva sposato nel 1981 il principe di Galles, se ne aveva divorziato dopo avergli dato l'erede al trono e un altro figlio nel 1995. Nel frattempo aveva acquistato, anche per la sua adesione a molte cause umanitarie, una fama e una popolarità planetaria, come dimostrò appunto la vicenda del suo funerale, che addirittura rischiò di mettere in crisi la stessa corona britannica. A questo personaggio e al suo mito dedica un libro il giornalista Vittorio Sabadin, che è stato corrispondente da Londra per La Stampa ed è tra i suoi vari interessi particolarmente esperto di storia e di tradizioni britanniche. Il libro si intitola Diana, vita e destino, pubblicato da UTET, uscirà in libreria martedì prossimo, 256 pagine, 18 euro. L'autore ricorda egli stesso l'apparente irrazionalità del dolore profondo e spesso incontenibile che colpì la gente in tutto il mondo, a qualunque ceto sociale appartenesse, un dolore che non aveva precedenti. Sabadin ricorda infatti: non si poteva fare alcun paragone con il passato. Le morti di James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley, John Lennon erano state altrettanto improvvise e tragiche, ma non avevano scosso il cuore della gente allo stesso modo. Nel presentare il personaggio, Sabadin nota anche come, morendo, in fondo Diana abbia ottenuto quello che non aveva conseguito in vita, e osserva l'autore: se avesse sposato Dodi Al-Fayed, la sua popolarità probabilmente sarebbe crollata, come era successo a Jacqueline Kennedy quando decise di sposare Onassis. Morendo, invece, la sua scomparsa improvvisamente lasciò il mondo con un senso di colpa. E partiamo proprio da questo per parlare con l'autore. Buonasera a Vittorio Sabadin. Buonasera. Vittorio Sabadin, come ho ricordato poco fa, lei ricorda un fatto, cioè che l'emozione planetaria che tutto il mondo mostrò alla notizia della morte di Diana rappresentasse anche come una manifestazione di un senso di colpa nei confronti della principessa. Che cosa ci rinfacciavamo 20 anni fa nei suoi confronti? Ma non lo so, era un periodo particolare, nel senso che soprattutto la Gran Bretagna veniva dal thatcherismo, veniva dagli anni in cui la Thatcher era stato primo ministro. Non dobbiamo dimenticare che la Thatcher è quella che sosteneva che la società non esisteva, no? E, insomma, in quegli anni forse la morte di Diana ha ricompattato la società, cioè ha creato un momento di commemorazione comune che si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo in pochissime ore, grazie alla televisione, grazie anche alla drammaticità dell'evento, e che ha creato forse la sensazione che Diana non era stata protetta abbastanza, cioè che non avevamo fatto abbastanza per lei, che i giornali erano stati crudeli con lei, che i fotografi, non dobbiamo dimenticare l'Unità che titolò "Perdonaci principessa", no? Proprio manifestando in un certo senso più di ogni altro giornale questo senso di colpa che un po' si era diffuso, come se a ucciderla fossero stati i giornalisti o fossero stati i fotografi. E quindi c'era questo senso di colpa collettivo che probabilmente si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo. Non dobbiamo dimenticare che miliardi di persone hanno assistito in televisione al funerale e milioni erano intorno all'abbazia di Westminster a commemorare Diana. Anzi, a proposito della responsabilità di giornalisti e fotografi, lei racconta come l'incidente avvenne in maniera molto diversa dalla versione che poi si consolidò, che dava appunto la colpa ai fotografi che inseguivano la principessa. Sì, questa idea che i fotografi inseguissero Diana è completamente sbagliata, nel senso che era molto spesso Diana a chiamare i fotografi perché la fotografassero. Ad esempio, due fotografi che hanno scritto un libro dal titolo Diana e i paparazzi raccontano che durante la crociera nel Mediterraneo insieme a Dodi Al-Fayed, proprio nel mese che ha preceduto la morte di entrambi nel tunnel dell'Alma a Parigi, fosse Diana a informare i fotografi di dove lo yacht si sarebbe ancorato perché potessero andarla a fotografare. Con quale scopo non si sa, forse come si dice ingelosire Ashnat Khan, del quale era ancora innamorato, forse semplicemente fare un ulteriore dispetto alla Royal Family, ma questa idea che i fotografi abbiano passato la vita in segue Diana è totalmente sbagliata. Lei anzi ha avuto un rapporto di complicità con i fotografi per buona parte della sua vita, sicuramente nella prima fase in cui ha conosciuto il principe Carlo e poi anche in quelle successive, perché Diana è stata molto abile a utilizzare la stampa per i suoi fini, per mettere in cattiva luce l'erede al trono, per mettere in cattiva luce Camilla, per dare l'impressione che lei era una persona perseguitata, che la famiglia reale ce l'aveva con lei. Insomma, dei giornali Diana ha largamente approfittato, sicuramente molto più di suo marito Carlo, che invece dai giornali si teneva alla larga. E quella notte nel tunnel dell'Alma di Parigi i fotografi erano molto lontani da quell'auto che andava a velocità folle senza una ragione, perché non si capiva per quale ragione bisognasse fuggire ai fotografi in quella serata, dopo che i fotografi avevano fotografato la coppia per tutto il giorno e l'avevano fotografata per tutto il mese precedente mentre era in vacanza. Quindi non c'era nessuna ragione per andare ai 130 all'ora in un tunnel di Parigi molto pericoloso dove si verificavano incidenti in continuazione, e tra l'altro con un'auto che è emerso proprio nelle ultime settimane, poche settimane fa, che era reduce da uno spaventoso incidente, era stata riparata alla meglio e rimessa nel parco macchine dell'hotel Ritz, e della quale tutti gli autisti del Ritz avevano paura, non la volevano guidare perché non stava in strada, non frenava, e quindi insomma una corsa folle con un'auto assolutamente inadeguata e con un autista che aveva bevuto. Non vedo proprio cosa c'entrino i fotografi in tutto questo. Raccontando la storia della principessa, lei ricorda come fin da giovane fosse afflitta da difficoltà psicologiche, da complessi. Quali erano gli elementi che avevano fatto sorgere questi problemi? Addirittura lei intitola poi un capitolo più avanti Talento per l'infelicità. Insomma, si era costruito anche questi presupposti la principessa Diana. Sì, lei ha raccontato lei stessa, quindi bisogna crederle, quanto traumatico fosse stato per lei proprio nei primi anni di vita scoprire che i suoi genitori volevano un maschio e non desideravano che nascesse un'altra femmina. Quindi alla sua nascita c'è stata una profonda delusione che ha marcato psicologicamente Diana, tant'è vero che i genitori non avevano nemmeno scelto un nome da femmina, tanto erano convinti che sarebbe nato finalmente l'erede al trono, al titolo di conte che tanto attendevano. E il secondo momento di grave crisi nell'infanzia di Diana fu quando la madre Frances se ne andò di casa per andare a vivere con un altro uomo, lasciandola da sola con il padre. Questi due fattori uniti insieme hanno creato, diciamo, la base per i disturbi psicologici di Diana, che non sono mai stati risolti, perché lei non ha mai accettato di ammettere che li aveva. È stata in cura da psichiatri e da psicologi, però preferiva affidarsi alla lettura delle carte, all'astrologia, ai tarocchi, insomma non aveva elaborato il fatto che aveva bisogno di aiuto, di un aiuto professionale, e ha passato tutta la sua vita a dare la colpa a qualcun altro del suo stato. Tra l'altro non sarebbe stata un'ascoltatrice di questa trasmissione, perché non amava molto leggere, mi pare di capire. Assolutamente no, ha lasciato la scuola a 16 anni e quando poi è diventata fidanzata del principe Carlo e l'ha sposato, e quindi con un ruolo di principessa del Galles e di futura regina, quando qualcuno le portava un libro da leggere sulla Costituzione o sulla storia inglese, lei rispondeva: no, no, ho lasciato la scuola a 16 anni per rimettermi a fare i compiti a casa, e rifiutava di leggere. Gli unici libri che ha letto nella sua vita, e anche questo probabilmente è stato un elemento dannoso per la sua stessa vita, sono i libri di Barbara Cartland, questa autrice che ha scritto migliaia di feuilleton rosa, oggi illeggibili, ma che all'epoca andavano abbastanza forte fra le ragazzine. E lei ha immaginato che la vita con un principe, la vita a Palazzo Reale, fosse come nei romanzi di Barbara Cartland, e quando poi si è resa conto che non era così è cominciata una crisi che non è riuscita a governare, proprio perché era impreparata a governarla sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista psicologico. Da quello che ci sta dicendo, da quello che ha scritto nel libro, da quello che è venuto fuori soprattutto dopo negli ultimi anni, viene fuori un ritratto della principessa diverso dalla geografia che è passata nei primi anni. Qui a Milano la chiameremo un peperino. Allora, come riuscì Diana a costruire l'immagine con la quale è passata la storia? Ma le sue bambinaie e le segretarie che hanno lavorato con lei erano tutte concordi nel dire che era la persona più manipolatrice con la quale si siano imbattute, e una sua ex collaboratrice ha detto che se fosse vissuta all'inizio del Novecento sarebbe stata una perfetta diva del cinema muto, perché Diana era molto molto brava nel comunicare quello che voleva, quello che desiderava comunicare quando era in pubblico, e quindi quei suoi sguardi, quel suo abbassare la testa, i suoi atteggiamenti così tristi, così malinconici, il modo proprio esibito con il quale, quando si trovava con Carlo, manifestava che fra di loro non c'era più nulla, guardando da un'altra parte. Insomma, tutti piccoli accorgimenti, oggi diremmo mediatici, che facevano in modo che le foto che le venivano scattate in occasioni pubbliche parlassero da sole, e cioè raccontassero la storia di una principessa infelice per colpa di altri. C'è nel film The Queen, c'è una battuta che recitano gli attori, in cui un collaboratore di Tony Blair dice: guardate che la Diana che conosciamo noi è molto diversa da quella che conoscono loro, e per loro intendeva il pubblico, la gente, i cittadini britannici. E questo è sempre stato un po' una caratteristica, cioè Diana all'interno delle mura domestiche era una persona totalmente diversa da quella che si sforzava di apparire con grande successo quando invece usciva di casa e faceva questi bagni di folla pubblici che tutti ancora oggi ricordiamo. Però anche lei ammette che fu una mamma esemplare. Non c'è dubbio, fu una mamma straordinaria, forse un poco possessiva, perché molte bambinaie se ne dovettero andare proprio perché il loro rapporto con William e Harry era diventato a suo giudizio troppo stretto, e quindi con atteggiamenti anche molto protettivi di gelosia. Ma per capire quanto fosse una madre esemplare basta vedere l'atteggiamento che ancora oggi Harry e William hanno nei suoi confronti, che è di grandissimo rispetto, di grande malinconia per la loro mamma, insomma. E quindi in questo sicuramente è stata una madre esemplare, ecco, non c'è alcun dubbio. Anche in questo libro il personaggio di Carlo, al quale lei ha dedicato un altro libro, esce abbastanza rivalutata comunque. Ma io credo che si debba farlo. Carlo sta per diventare re, insomma, certamente fra qualche anno salirà al trono, e Carlo ha purtroppo passato buona parte della sua vita un po' prigioniero di questa immagine che Diana gli aveva cucito addosso, cioè di un marito anaffettivo, di un marito che non pensava a lei, di un marito che la tradiva con Camilla, e quindi i giornali, quasi tutti noi, ci siamo occupati di Carlo solo in questa chiave. Nei titoli dei giornali dopo la parola Carlo c'era o Diana o Camilla, no? Non si scappava da questo. E invece Carlo, come principe del Galles, è stato probabilmente uno dei migliori principi del Galles che la Gran Bretagna abbia mai avuto, con tutte le sue iniziative umanitarie, con il Prince Trust che ha aiutato finora più di 500.000 di ragazzi a trovare un lavoro o a imparare una professione, con le sue iniziative che anticipavano i tempi in favore dell'ambiente, delle coltivazioni biologiche. Oggi ne parlano tutti, ma negli anni Ottanta, quando lui ha cominciato, nella sua tenuta di Highgrove, non ne parlava nessuno. Quindi c'è tutto un aspetto di Carlo che è molto positivo per lui e che è stato totalmente ignorato dai giornali. Io credo un po' che anche in Gran Bretagna sta un po' avvenendo questo, nel senso che i giornali che stanno celebrando l'anniversario di Diana cominciano anche a rivalutare Carlo, a rivalutare Camilla, che forse hanno pagato per troppi anni colpe che non erano loro o che non erano soltanto loro. Grazie a Vittorio Sabadin, autore di Diana, Vita e Destino. Buona serata. Grazie a voi. E adesso ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritornati con Salvatore Carruba. Rimaniamo nel genere delle biografie, ma incontriamo un genere di personaggio completamente diverso, morto quasi 500 anni fa, anzi per la precisione 490 anni fa, e cioè Niccolò Machiavelli, il grande pensatore considerato il padre, il fondatore del pensiero politico moderno. Gli ha dedicato una bella biografia una studiosa di filosofia politica che ha insegnato a Yale, Oxford e Londra, Erika Benner. Il libro si intitola Esser Volpe, Vita di Niccolò Machiavelli, pubblicato da Bompiani, 494 pagine, 23 euro, ed è tradotto da Lorenzo Matteoli. Qui troverete una brillante ricostruzione di uno dei periodi decisivi dell'umanità e di uno dei suoi indubbi protagonisti, cioè Machiavelli, il quale fin dall'inizio fu considerato da molti una specie di anticristo, un demone della politica, un emissario di Satana, e da tanti altri invece il padre della politica moderna. E questa differenza di giudizio non è strana. Studiando Machiavelli, infatti, l'autrice ne scopre la grande ambiguità e scrive: in varie occasioni Machiavelli utilizza un linguaggio diverso per dire cose diverse. Per ogni cinico argomento machiavelliano che ho trovato nei suoi scritti, ne ho sempre trovati due o tre di senso assolutamente contrario. E conclude: presto cominciai a dubitare che Machiavelli credesse effettivamente a tutti i consigli che dava. E su questa ambiguità è costruito il libro su Machiavelli, che ne esplora la figura, le opere, il lascito, ma anche l'ambiente storico, culturale. Al presunto cinismo di Machiavelli si ispirò un personaggio di cui torneremo a parlare nelle prossime settimane, quando ricorderemo il centenario della Rivoluzione d'Ottobre, e cioè Lenin, di cui esce una biografia scritta da un giornalista e storico, nonché scrittore ungherese, grande esperto di comunismo e postcomunismo, Victor Sebastian, che ha scritto Lenin, la vita e la rivoluzione, pubblicato da Rizzoli, 556 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Chicca Galli e Roberta Zuppet. Nonostante la fine del comunismo, Lenin continuò a occupare un posto d'onore nella Piazza Rossa, oltre che nell'immaginario e forse anche nell'affetto di gran parte del suo paese. L'autore scrive che il culto di Lenin sopravvive anche se in altra forma. E come mai soprattutto questo culto è alimentato in particolare da Putin? Perché, spiega l'autore, ciò è il segnale evidente della volontà di Putin di mostrare una continuità storica, e cioè l'idea che la Russia abbia bisogno, così come è sempre stato, di un leader spietato e autocratico, ovvero il russo, il Vojd. Un tempo la tomba di Lenin era il simbolo del comunismo, ora è diventato un altare del rinascente nazionalismo russo. E quindi, conclude l'autore, a essere imbalsamato non è soltanto la salma di Lenin, ma soprattutto il giudizio storico, il giudizio sulla sua personalità, le sue motivazioni e le sue intenzioni. Lenin è attuale anche per un'altra ragione, perché fu il padrino, spiega l'autore, di quella che gli analisti oggi chiamano politica post-fattuale. E fu un politico consumato da questo punto di vista. Infatti, quando l'ideologia si scontrava con l'opportunismo, Lenin sceglieva invariabilmente la via della tattica rispetto alla purezza dottrinale, e di questa affermazione poi l'autore dà molte dimostrazioni nel suo libro. E quindi questa biografia scandaglia anch'essa con stile brillante non soltanto l'uomo, ma l'ambiente, l'epoca di Lenin. E dal libro vi propongo alcune righe su una data fatidica e su un aneddoto rimasto famoso nella Rivoluzione Russa. La data fatidica è quella del 5 gennaio del 1918, quando venne sciolta l'Assemblea Costituente, che era stata il primo Parlamento praticamente a essere stato liberamente eletto dal popolo russo, e sarebbe rimasta l'ultima per i successivi 75 anni. Quando i delegati tornarono a riempire l'aula alle 23:30, i discorsi si fecero più lunghi e più noiosi. Un marinaio seduto in uno degli scranni insultò Cereteli in tono monocorde e gli puntò addosso il fucile. Un altro mirava a Chernov e sorrideva, raccontò Reed. Lenin se ne andò verso l'una del mattino, ritenendo inutile assistere alla conclusione del fugace esperimento democratico russo. Intorno alle 4 del mattino, il commissario per la marina ordinò al comandante delle guardie russe, Anatoly Zeliesniakov, di sgomberare l'aula. Il comandante si avvicinò a Chernov sul podio, gli picchiettò una spalla e disse: «Dovreste uscire tutti dall'aula, perché le guardie sono stanche». Chernov ribatté: «Siamo stanche anche noi, ma non possiamo interrompere il lavoro. Gli occhi di tutta la Russia sono puntati su di noi. Le guardie, quasi tutte ubriache, iniziarono ad accarezzare minacciosamente i fucili e spensero le luci una dopo l'altra. Alle 4:40 del 6 gennaio, tutti i delegati uscirono e i cancelli del palazzo si rinchiusero alle loro spalle. Quando si avviarono di nuovo verso il palazzo di Tauride, l'indomani pomeriggio, trovarono la strada sbarrata dai soldati. Sui cancelli del palazzo era fisso un decreto che scioglieva l'assemblea. Lenin disse in seguito a Trotsky: «Sì, è stato un rischio, un grande rischio, non rinviare la costituzione dell'assemblea, ma alla fine è stato meglio così. Disperderla ora equivale alla piena ed esplicita liquidazione della democrazia formale in nome della dittatura rivoluzionaria. Servirà da lezione. Il popolo voleva convocare l'assemblea e noi l'abbiamo convocata. Ma il popolo ha capito subito che questa assemblea rappresentava un ritorno al passato. Quindi abbiamo fatto la volontà del popolo». Una delle prime e più sorprendenti vittime della rivoluzione leninista fu l'impero dei Romanov, la cui storia è ricostruita da Simon Sebag Montefiore, che è uno storico inglese, nel libro I Romanov 1613-1918, tradotto da Massimo Parizzi e Chiara Rizzo per Mondadori, 964 pagine, 40 euro. Questo è un altro brillante ma documentatissimo libro di storia su una delle casate che hanno fatto la storia del pianeta, possiamo dire, e che diede 20 zar alla Russia nei 304 anni in cui i Romanov ressero quel paese, un periodo nel quale essi costruirono un impero immenso che alla fine del XIX secolo rappresentava addirittura un sesto della superficie terrestre. Ma il libro, spiega l'autore, è anche uno studio sul carattere del potere assoluto e la distorsione della personalità che esso induce. Il Romanov, aggiunge, hanno finito per rappresentare non solo una dinastia e la sua magnificenza, ma anche il dispotismo in sé, in una parabola della follia e arroganza del potere assoluto. A eccezione dei Cesari, nessun'altra dinastia ha occupato un posto simile nell'immaginazione e nella cultura popolari. Anche la fine degli ultimi Romanov, con la fucilazione della famiglia imperiale, è stato un trauma dal quale la Russia si è ripresa a fatica. Quando, dopo la caduta del comunismo, i resti dei vecchi zar, degli zar uccisi, vennero riesumati e solennemente sepolti, il capo della Russia di allora, cioè Yeltsin, disse che si trattava di una data storica per il suo paese. «Abbiamo a lungo osservato il silenzio su questo mostruoso crimine», aggiunse. La strage di Ekaterinburg, il paese dove erano stati fucilati, è divenuta uno degli episodi più vergognosi della nostra storia. Vogliamo espiare i peccati dei nostri antenati. Siamo tutti colpevoli. Molte pagine gloriose della storia del nostro paese sono legate ai Romanov. Restiamo in Russia con uno dei suoi massimi scrittori, cioè Tolstoi, che troviamo nelle insolite vesti, per così dire, di reporter sulla condizione drammatica dei russi poveri, le condizioni sulle quali probabilmente fecero leva i rivoluzionari che poi avrebbero travolto appunto il regime zarista. Nel 1881 Tolstoi si trasferisce a Mosca, dove ammette di rimanere stupito della miseria urbana. Lui è nobile, ricco, acclamato e sente la sua ricchezza quasi come una colpa, tanto più che questa ricchezza viene alimentata dai diritti d'autore, dai suoi libri che hanno ormai molto successo, ma che sono venduti a caro prezzo e acquistati spesso da lettori piccolo borghesi, quindi con scarse disponibilità economiche. Da questo travaglio nasce il libro che vi propongo, che si intitola Che fare dunque, è pubblicato da Fazzi, 246 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Flavia Sigona. È un libro nel quale Tolstoi descrive la situazione sociale della città, ma soprattutto il trauma che questa scoperta gli provoca. Quando decide appunto di perlustrare Mosca, la Mosca dei poveri, cominciando da un mercato che era l'epicentro dell'aggregazione dei poeti moscoviti, e poi ritorna a casa, Tolstoi scrive addirittura di aver avuto la sensazione di aver compiuto un delitto, quando sale le scale di casa sua, rivestito di una passatoia, entra nell'anticamera, il cui pavimento era coperto di tappeti, e poi aggiunge: toltami la pelliccia, sedetti a desinare con un pranzo di 5 portate, servito da 2 camerieri in frac, giacca e guanti bianchi. Ma Nonostante tutto, Tolstoi è ottimista perché immagina che l'opinione pubblica del suo tempo stia cambiando, così come ormai qualche anno prima si era abituata all'idea che la servitù della gleba potesse andare in soffitta, così allo stesso modo oggi sta cambiando l'idea di che cosa sia lodevole e che cosa disonorevole, ed è cambiata la vita tutta. E scrive l'autore: oggi basterebbe eliminare l'illusione che giustifica il potere del denaro sugli uomini per conseguire lo stesso effetto, e questo avverrà presto, perché la verità si sta a poco svelando. Basta osservare con attenzione per vedere il cambiamento che già si è prodotto nell'opinione pubblica, ma di cui non si è ancora presa coscienza né trovato il termine per definirlo. Insomma, Tolstoi aveva fiutato l'aria che cambiava, anche se non aveva previsto il corso che il cambiamento avrebbe preso. Con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Auregi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.